Ciao, buonasera, si sente? Ok. Dicevo, intanto che vedo di riavviarlo in modalità che si veda anche sullo schermo, potrei fare una chiacchiera, no, è meglio che sto attento a quel cazzo che faccio. Ok, adesso si dovrebbe vedere. Buonasera. Allora, di cosa parliamo stasera? Di demoni Unix e di socket TCP/IP, ok? Quindi più o meno indicato a chi non sia un professionista, perché se siete professionisti del ramo è inutile che ve lo vengo a insegnare a voi. Da dove nasce la storia? Volevo un compito che non fosse proprio banale da usare per reimparare a scrivere in C, quindi mi sono scelto quello dei fast flux, che come vedremo non è una cosa immediata che sia facilmente risolvibile, insomma. Dopodiché via via ho sviluppato il codice, non è che è nato tutto in un colpo, ma proprio per la sua natura si è tirato dietro la creazione di un protocollo di comunicazione fra i demoni, ok? Quindi non soltanto il scrivo in C e faccio un utilizzo non banale di un socket, ok? Ma soprattutto minchia, ma questi io li voglio far comunicare, bisogna anche che trovo un modo, uno standard che valga all'interno di questo sistema, ok? Allora, un attimo vediamo di partire. Vabbè, non è velocissimo, ma questo non è un problema, o almeno non è un problema per una proof of concept, ok? Un qualcosa da far vedere che funziona. Se voglio affrontare una roba tipo 100.000 syslog al secondo, beh, non andrà più bene, questa macchina, sia chiaro, ok? Splendido, non c'è, piglio il mouse. Allora, se volete lo posso ingrandire ancora, basta un control più extra, non c'è problema per me. Ah, dai, costa un cazzo. Allora, partendo da questo tizio qua, InfoSec Nirvana, vedete che scoprire un fast flux è un task che non è semplicissimo, non è una cosa a portata di tutti. Perché? Perché fast flux, sto stronzo, cambia in continuazione, ok? Quindi voi ve lo scordate di seguirlo solo tramite il DNS, ve lo scordate di farlo con un modo semplice, non esiste un modo semplice di fare la detection di un dominio fast flux, ok? Quindi cosa si fa? Si va per esclusione e in particolare per rendermi conto della dimensione del problema mi sono fatto passare da una collega un paio di 22 milioni di righe di log. Le ho analizzate alla ricerca con un po' di grep, di AVK, di robe del genere, ne tirate fuori il succo, ok? Prendete i syslog di navigazione, tirate fuori chi è, dove cazzo sta andando, alla fine ci fate un bel sort meno U, e la lista si è ridotta da 22 milioni di righe a una cosa sostanziosa, decine di migliaia, ma comunque trattabile. A quel punto salta fuori che ci sono due evidenti domini fast flux che sono stati visitati da un utente dentro l'entità che si affida a questi proxy. E questa informazione vale anche qualcosa, lasciatemi dire, però vale qualcosa se io gliela do un po' alla svelta. Perché se io lo detecto stasera guardando i syslog quando ne ho accumulati 20 milioni e poi alla fine ci faccio sort meno U, è grazie al cazzo, non vale più. Okay? Anche perché un fast flux può durare davvero poco come tempo di vita, quindi hai poco tempo per trovarli. E poi lo devi comunicare a chi di dovere, la notizia deve arrivare fino a chi può reagire, a chi può tanare la macchina che è infetta o che comunque sta contattando un dominio fast flux, ok? Quindi ci serve di essere rapidi, ma se andiamo a scorrere vedrete che un mucchio di altra gente ha guardato queste cose qua. Allora, la seconda citazione sono le regole di Snort. Anche Snort tenta di identificare i domini fast flux, però come fa? Grazie al cazzo, usa delle regular expression che diventano sempre più onerose, più tu lo vuoi buono il risultato e più diventa oneroso il calcolo che devi fare. E Snort fa l'intrusion detection, mica può stare lì delle ore, deve decidere alla svelta. Quindi che succede? Che non è tanto buono a meno che tu non ci metti delle risorse della Madonna, ma grazie al cazzo. Se ho delle risorse infinite, ho finito, non c'è il problema, ma se di risorse io ne devo avere meno di quelle che mi stanno sparando addosso, non è quello il sistema, non va bene. Poi ci sono degli altri tizi che ad esempio identificano una macchina remota in base a 5 parametri. I 5 parametri non dico non vanno bene, ma fra che io ho preso il TTL, ho preso quell'altro, me ci passa del tempo, faccio un calcolo anche rapido e poi butto via il risultato. Puttana Eva, sono perdente un'altra volta se faccio così, non va bene. Okay? Se io voglio resistere a un assalto di 100.000 syslog al secondo, non è questo il modo di pensare. Questa l'ho tenuta perché è carina. Oppure mi faccio una bella formula che integra tutto il conoscibile, però sti cazzi di parametri io ce l'ho da avere tutti prima di cominciare a fare il calcolo. Se uno di questi qua viene da una ripetizione di un'altra cosa, ma io ce l'ho fra un quarto d'ora la cazzo di risposta. Io la voglio in un milionesimo di secondo. È diverso. Ok? Oppure, quell'altro di sotto. Anche qua. C'ho dei sigma, c'ho dei delta, dei log, va bene, fare il logaritmo non ci vorrà un'eternità, però procurarmi i dati con cui implementare tutta questa roba richiede del tempo, che io non ho, semplicemente. Qua vi racconto più o meno questa roba qua. Ve la potete leggere voi, quindi ci beccano abbastanza bene in alcuni casi, ovvero ti selezionano solo i domini fast flux con una certa garanzia, con un certo bontà. ma non sono applicabili se uno sta gestendo un sistema vero, perché cioè, se ti arrivano 100 syslog al secondo, ok, d'accordo, amen, ma se tu ne ricevi 80.000, se voglio scalare fino a una 10 gigabit, bisogna che io abbia un codice che sia un pochettino un po' più efficiente di questa roba, ok? E soprattutto, lasciatemi dire, il trucco non sta nel uso un'istruzione in più o in meno, che ci vuole anche quello, ma è come strutturo i dati e come li vado a trattare, ok? Chiaramente quello che potrete vedere stasera e che ho attivo poi qua sopra, cosa fa? Ascolta su una porta UDP, si fa inoltrare tutti i syslog della Madonna in arrivo dai proxy di navigazione e li filtra. Li filtra. Allora, per il nostro sistema ci sono almeno due requisiti importanti. Ci interessa che sia scalabile. Io non lo voglio, un coso che qua funziona bene, appena gliene passo 20 in più va tutto a catafascio, non esiste. Deve potersi espandere a qualunque livello di scala. Quindi è importante 1.1 che la risposta del sistema nel suo complesso sia non lineare. Se tu a un certo istante mi stai buttando dentro la mia vasca 20 litri al secondo e io ne spumo via 30, ok, ci stiamo dentro, ma quando tu me ne butterai 40, io ci devo star dentro lo stesso. Non è sufficiente che sia lineare all'input quello che esce, bisogna che venga più velocemente possibile filtrato e scartata la parte non interessante con una discreta velocità, ok? Quindi tutto questo cosa porta? Che cominci e scrivi il primo demone che sta lì, ascolta sulla porta UDP se volete 514, ma anche un'altra che non c'è problema, così sta fuori dai coglioni, si fa inoltrare o si fa mandare i syslog e per ciascun syslog che arriva comincia a trattarlo. Il primo demone della serie, che ho chiamato Caronte, giusto perché li porta all'inferno, allora. Ah, beh, qua vi faccio già subito, sono già andato avanti. Ho saltato il punto 1, 2 e il 2. Che mi sembravano abbastanza importanti anche allora. Per ottenere una vera scalabilità a qualunque livello, e non mi basta di poter contare perché io ho il super pezzo di ferro, no, lo devo poter distribuire in giro sto compito, così che se non mi bastano 20 macchine me ne servono 22 e non c'è problema, ne accendo un'altra, ok? Deve poter scalare, ma non perché ho investito un miliardo di soldi in hardware, deve poter scalare una cosa come ZFS, cioè qualunque pezzo ci metto, tanto i compiti sono di carico diverso, uno c'ha bisogno di meno, ci posso mettere un Pentium 2, okay? A seconda di cosa ci voglio fare, dei tempi di risposta che voglio ottenere, magari evito di usare il Commodore 64 con 6502 dentro, okay? Però che siano compiti distribuibili su più demoni contemporaneamente, giranti su più hardware o almeno su più core CPU, ok? Ah, e poi il requisito 2, quello dell'adattabilità, perché se io voglio un sistema per giocare è un conto, ma se voglio che sia vendibile, usufruibile a un utente qualunque, si deve adeguare ai suoi parametri, non ai miei che ci ho pensato io, ok? Quindi quelle cose che useremo poi per andare a misurare quanto è buono o cattivo un certo dominio, il TTL, uno su tutti, ma poi ce ne sono degli altri, dopo li vediamo. Comunque, quei parametri lì, devono essere impostabili dall'utente, non precablati nel codice, se no ho perso un'altra volta, ok? Non è la mia cognizione di oggi vale, quando domani chi tiene i fast flux avrà imparato che un TTL di 1200 lo vado a beccare e fa 1199, e beh, siamo da capo, ok? Quindi queste cose qua bisogna tenerne conto, e bisogna anche che mi possa scegliere dove far girare il codice, in parole povere, ovvero ho un protocollo di comunicazione tra i demoni. Vabbè, allora cominciamo a vedere come sono fatti sti stronzi. Che cosa fanno? Noi per fare il nostro mestiere, così come prendiamo 22 milioni di righe, gli facciamo grep, VK, sort, meno U per restringere un attimo le cose, giriamo la frittata al contrario. Prima facciamo il sort, meno U. Solo le non ripetizioni vengono prese in considerazione. Se è una roba che ho già visto, sia o non sia fast flux, me frega un cazzo, l'ho già trattata, ok? Quindi da questo punto in avanti potete vederle come delle indagini che vanno avanti o non vanno avanti in base alle risultanze di quello che diranno i prossimi demoni. Il primo della serie però si trova a dover affrontare i syslog che arrivano a un rate elevatissimo. Il più piccolo che ho visto live sono 4 milionesimi di secondo, ma a me ne arrivano poche centinaia al secondo, era un caso. Quando vuoi 100.000 al secondo, e beh, i milionesimi sono pochi, Quindi il primo demone della serie deve reagire velocemente. La seconda osservazione ve l'ho già anticipata all'inizio, è chiaro che se io sto aspettare di avere tutti i parametri con cui istanziare la mia ricerca, la mia formula magica, ho perso, è una stronzata. Ah, qua mi sono inventato il TCCF, prova prima il calcolo che ti costa di meno. Quindi se ho due calcoli che mi servo di sapere tutti e due, beh, prima fai quello da poco. Se l'indagato, se l'indagine sopravvive a questo parametro, beh, allora farai anche l'altra indagine, ma prima quella che ti costa di meno. E come le dividiamo? Io le divido almeno mentalmente in due tipi, quelle locali, interne al sistema. Il sistema cosa intendo? Non questa cazzo di macchina, ma anche un pool di macchine cooperanti, ok? E quelle esterne al sistema, perché? Perché se voglio il TTL di qualcuno, voglio altre informazioni, e beh, mia, io non ce l'ho, devo andarle a chiedere all'esterno, ci sono dei ritardi nelle comunicazioni, ok? Quindi se mi sogno di tenerli sincroni, ne arriva una, ne gestisco una, ok? Bisogna lavorarli in maniera un po' più asincrona. Per cui la conclusione naturale è che non ci interessa un programma monoblocco che decide tutto lui in un colpo solo, no, avremmo perso. Vabbè, anche qua vi ho già anticipato un po' della cosa, quindi noi vogliamo un ordine nella sequenza di indagini che vengono fatte. Perché? Perché in realtà per determinare che un certo dominio è un fast flux, a me mi servono tutte queste cazzo di informazioni, anche quelle che ci vorranno 11 o 12 secondi andarmi a prendere. Quindi nel complesso il tempo di risposta da quando mi arriva il syslog a quando ho determinato che è un fast flux è magari anche di 15 secondi, che non è un tempo indifferente, ma posso sostenere lo stesso un rate in ingresso di 100.000 indagini, non di poche perché mi ci vuole tanto tempo, ok? Quindi il tempo di scoperta, di determinazione che un dato dominio, un fast flux, non è di granché inferiore a quello degli altri. Vabbè, allora, Caronte si sta semplicemente lì, però se una macchina da sola non ce la fa, e beh, basta che ce ne sia una batteria di macchine che complessivamente ha la capacità ricettiva voluta, ok? E quindi il primo front-end, il primo assalto dei syslog che arrivano ogni 3 miliardesimi di secondo, cazzo, questi sono ancora più... viene affrontato non da una macchina, non da un codice, non da una CPU, ma da una molteplicità, d'accordo? Che cazzo fa? Semplicemente, non so se avete in mente come è fatto un syslog da un proxy, c'ha una quarantina di campi per un totale che varia dai 2000 ai 60.000 byte di immondizia, ok? Quindi costui semplicemente piglia e sgruma, prende le quattro cose che gli interessano e inoltre al prossimo demone, va bene? Per essere il più rapido possibile, per non caricarsi di roba che non gli compete, semplicemente pota i dati in ingresso prendendo i quattro campi che ci interessano. Sfiga vuole che quelli di Blue Coat hanno un campo che cambia posizione, quindi te lo devi cercare, però vabbè, cioè, è una paranoia di Blue Coat. Se venissero da un altro proxy di navigazione magari avrebbero un altro formato, ok? Però il tipo di immondizia è una spatafiata di caratteri di cui vi interessa poca roba in realtà. Quindi qua vediamo il primo esempio di un pacchetto con il protocollo. Cosa ci ho messo? Vabbè, le parentesi le uso solo per chiarità di che cosa c'è dentro il pacchetto, per far chiarezza. Il nome del demone, 8 caratteri, un esadecimale, tutta questa roba qua, ok? Il numeretto qua in esadecimale lo genero io ed è il numero sequenziale della richiesta, così ciascuna di queste ha un suo identificativo fin dall'origine. Okay. Questo numero ci consentirà di seguirne tutto il percorso fino alla fine, poi di tornare indietro se vogliamo, perché poi se vogliamo e abbiamo trovato un dominio fast flux ci interesserà poter segnalare la singola riga di syslog a chi è il proprietario dei dati, okay? Quindi ci interessa di sapere la data, l'ora, la macchina che ce l'ha mandata, il client, la destinazione, queste cose noi ce le dobbiamo tirare dietro, altrimenti a fronte di un allarme, e che gli dici, c'è stato un allarme di chi? Di qua o di là? Di che? Okay? Ci serve di tirarci dietro un po' di informazioni. Comunque, il primo campo sensato, lasciatemi dire, è un identificativo. Poi c'è tutta la roba che viene dai quattro campi che abbiamo tirato fuori dal syslog originale. Qua non vi mostro i syslog originali perché sono del cliente, è inutile che vi faccio vedere della roba che non compete. Dopodiché c'è, vabbè, un blue coat, il sorgente, la destinazione, eccetera, eccetera. Vedete, alla fine lo marco con un più e poi chiudo. Poi lo sta mandando da Caronte al prossimo demone della catena, Verin. Verin perché è il demone della fretta, costui si deve muovere anche questo. Ad ogni modo, quello che Caronte riceve è tenuto a inoltrarlo più velocemente possibile, senza star tanto a guardare, ok? Invece Verin, se cominciate a fare i conti adesso, porca puttana, si pianta tutto perché comunque l'UDP è inadeguato a reggere certi ritmi, ok? Se io mi metto in ascolto sulla porta e la tengo in blocking mode e va avanti in cazzo, o leggo o calcolo, non va bene. Okay. In più l'UDP mi consente delle perdite, io, cioè, no, da ora in avanti mi serve che sia TCP, quindi Caronte riceve in UDP e trasmette in TCP verso Verin, questo porta a un effetto secondario che in realtà non mi aspettavo, i pacchetti non sono più univoci a sé stanti, ok? Guardate. Ah, vabbè, ma questo è il cosa fa, ma ci possiamo anche tornare dopo. Volevo farvi vedere questo, lo chiamo vagone, è un unico coso filtrato, spurgato da Caron di un unico syslog in arrivo, ok? Questo pacchetto è stato rilasciato perché? Perché il TCP ha deciso che abbastanza tempo di attesa e l'ha mollato così da solo. Quando invece ho dei rate di arrivo che chiamo treni e li devo cucire insieme, me li trovo tutti cuciti insieme, è per quello che ho dovuto introdurre un separatore tipo il, dove cazzo sta, il più. Okay. Ci deve essere un token o un altro meccanismo, come vedremo dopo, per separare logicamente le richieste in arrivo all'interno di un treno, soprattutto perché quando avete eventualmente merda, quando eventualmente avete un treno consistente, ci sono dentro 200 record singoli, ok? Quindi per trattare questa roba come delle cose diverse, non tutto un mucchio unico, e saperle separare, bisogna introdurre un token. Poi dopo useremo un meccanismo diverso quando lo vogliamo ottimizzare, ma tenete presente che il protocollo è orientato al debug, cioè deve essere facile da leggere per me questo cazzo di protocollo che parlano i demoni, se no ho finito, ok? Cioè se mi devo impazzire... Allora, torniamo su un attimo. Quindi li distinguiamo in vagoni e treni, se vi piace. Perché? Perché il buffer del TCP viene riempito asincronamente rispetto a quando noi andremo a trattare il contenuto. Ok? Questo è carinissimo, è fantastico. Perché? Perché ti permette di sganciarti dal tempo di arrivo dei pacchetti, ci pensa al buffer del TCP ad accumulare tutto quanto. Che bello, che bello, che bello. Torno a fare la lettura del buffer quando ho finito i cazzi miei. Ah. Questo però implica poi che ci siano le letture non bloccanti, perché è chiaro che io posso sempre dirgli al socket no, fermati in attesa di dati, ma non è quello che vogliamo. Noi vogliamo dei socket che lasciano passare dei dati se ci sono, o che smettano semplicemente e lasciano correre il resto del codice, ok? Vabbè, quindi treni, vagoni, serie di queste robe qua. Allora, cosa gli fa Verin? Verin, siccome li riceve a treni così consistenti, si accorge che dice, beh, ma minchia, ma tu mi hai chiesto tre sotto URL dello stesso URL, a me mi interessa il nome di dominio. Quindi deduplica tutti i duplicati. Poi già che c'è, se tu mi hai messo un indirizzo IP nel destinazione, e beh, io non ci faccio un cazzo con l'indirizzo IP, mi serve un nome di dominio, se no che fast flux sarebbe. Quindi lo butto via, non lo tratto. È inutile che mando avanti dei calcoli su una roba che non ci faccio un cazzo. E fa tutta questa serie di ragionamenti. È chiaro che se il nome viene risolto in una qualche maniera, è presente l'informazione lì dentro, con 172, 23, 4, grazie al cazzo, è una risorsa locale, non vado a vedere se è un fast flux, potare, ok? Tutti i calcoli, tutte quelle conclusioni che possono essere tirate velocissimamente sono in carico a Verin, demone della fretta, che una volta che le eseguite non fa altro che passarle al prossimo demone della serie. Qua ne facevo l'esempio che a fronte di un treno consistente come quella roba lì, con magari 100 record di cui un tot duplicati, siccome è importante fare subito il meno U del sort, ok, ce n'è qualcuno, noi vogliamo in uscita una manciata di pacchetti, ok? Questo ci consente di avere una non linearità tra il segnale in ingresso, il numero di syslog che arrivano, ok? E l'uscita. Cazzo, cominciamo a buttare via della roba a un ritmo tale che tutti i doppioni che si presentino all'interno di un treno, tutti quelli che hanno un indirizzo IP, tutti quelli che sono irragionevoli da essere trattati, vengono scartati ora, subito, più velocemente possibile. Dopodiché, quelli avanzati li inoltra al prossimo demone della serie, che in questo caso è Botis. Botis deve essere il protettore della polizia segreta, una roba del genere. Botis non è che faccia... qua sono divagazioni. È chiaro, fa quel mestiere lì, io posso mettere tante copie contemporanee di Verin, quante me ne servono a reggere il rate di arrivo da Icaron, come quell'altro ne posso avere una, 10, 200 copie attive, qua ce ne metterò tante quante cazzo me ne servono, quindi può scalare fin dove voglio. Invece Botis, che è un po' il cuore centrale del sistema, che accidente fa? Questo bisogna che tenga essenzialmente due liste. Una è quali indagini sono attive, che cosa ho passato agli altri demoni. Siccome questa lista cambia velocissimamente, è inutile che io la tenga ordinata, la scorro sequenzialmente. Per cui se dal demone precedente arriva una richiesta riguardante un dominio che è già sotto indagine, basta, c'è già quell'altro, ok? Buttare via. Se passa questa prima lista, che quindi essendo corta e altamente dinamica non voglio tenere ordinata, dove deve andare a sbattere? Beh, sul sort meno U, ovvero tutti quelli che ho visto ordinati, così faccio una ricerca binaria, andiamo via bene, con una ricerca binaria ve la cavate abbastanza velocemente, anche a cercare su un milione di record non c'è problema. Dopodiché se è presente nella lista di indagini concluse, è anche inutile che vada avanti. Ok? A questo punto cosa succede? Che tutto quello che ho già visto in precedenza viene filtrato qua. Comunque sia andata a finire un'indagine precedente, qua viene registrato, se è una di quelle attive, ce l'ho fra le attive, nessun duplicato va oltre Botis, nessuna richiesta duplicata va oltre questo demone, ok? Questo ferma tutti i duplicati. A questo punto abbiamo un rate in uscita che è gradevole, possiamo cominciare a trattare il caso, ok? Qua ci sono degli esempi, le indagini concluse, la tripletta port host domain, perché mi tirerò dietro fino in fondo qualcosa che non è solo il nome di dominio? Perché alla fine se mi piacesse di fargli nmap o connettermici sopra, ce l'ho, ok? Allora, vabbè, qua Botis che riceve da Verin, si fa i suoi calcoli. Quando gli faccio, quando trova un sospetto, me lo faccio stampare per farvi vedere le prestazioni. Che succede? Che alle ore 17:50, una roba così, ne trova uno ogni 22.000. Poi via via che impara, ne trova di meno. Perché? Perché tutti quelli che ha visto ha già determinato se sono buoni o cattivi in una maniera o nell'altra. Quindi diminuisce sempre. Sempre. No, vedete che a un certo punto passa da 43.000 a 31.000. Diciamo tendenzialmente cala. Poi passa la notte e si vede che passiamo da 55.709 a 290.000. Perché? Perché durante la notte sono delle macchine che si parlano attraverso i proxy, non c'è nessuno. Quindi sono tutte ripetizioni che non raggiungono neanche il prossimo livello di elaborazione. Ok? Allora, presentiamo il prossimo della serie, Dagon. Dagon che cazzo fa? Beh, lui decide in base alle caratteristiche del nome di dominio, ok? Se è buono o cattivo, perché cioè, ce ne sono alcune considerazioni che sono veramente gnocche, ve ne faccio un esempio uno. Se si chiama msn.com e non può essere un fast flux. Un nome di dominio più corto di 8 caratteri, lasciate perdere. È inutile che continui i calcoli con CIA, GOV, ma lascia stare. Un nome di dominio più corto, nella sua parte più lunga, diciamo, più corto di 8 caratteri, viene tagliato fuori. Quindi Dagon fa delle considerazioni stilistiche e di linguaggio. Delle sì, insomma, ci mettete poi dentro quel cazzo che vi pare voi eventualmente, però è il primo demone che comincia a fare dei calcoli un po' più seri, un po' più costosi, ma è sempre locale al sistema. Anche questo può scalare finché ne voglio, ce ne metto degli altri, ok? Vabbè, quello che vi ho appena detto. Siccome ciascuna di queste considerazioni stilistiche ha un suo costo, è importante che all'interno di questo programma che le raccoglie, se volessi le potrei dividere su più demoni, ma non ha senso, perché già questo comincia a arrivargli meno roba, è importante che io le esegua nell'ordine prima la più veloce, poi quelle altre più complicate. Poi Dagon che fa? Genera una risposta, la rimanda indietro verso Botis, si è determinato che in base alle sue regole questo non è un fast flux. Se invece è un caso dubbio, l'indagine va avanti, la passa al prossimo demone, Azazel, che... qua ci sono gli esempi. Ok, Botis che manda Dagon quindi una richiesta di analisi sintattica e Dagon che manda al prossimo demone la richiesta di maggiore analisi, un'analisi più approfondita voglio. Quando vogliamo un fast flux, siccome i fast flux sono fast, il tempo di vita ci interessa enormemente, è un dato su cui noi, cioè tutti, usano almeno il TTL per determinare se almeno è fast, perché se non è fast che cazzo sto a guardare, ok? Quindi questo che fa la prima indagine costosa in quanto si deve rivolgere all'esterno per avere questa informazione già riceve una frazione considerevolmente scremata e comunque tendenzialmente in decrescita. Okay? Quindi se nei primi istanti di vita di questo sistema voi lo accendete a fronte di 5.000 syslog al secondo, sì, è facile intasarlo per qualche minuto, ma per qualche minuto poi si spoma, ma ma se gli lasciate un attimino di tempo di allenarsi, e beh, è una favola. Il filtro iniziale già mi tira via tutti i doppioni, scendi a un sospetto per milione, per 2 milioni, per 4 milioni, ok? Quando però noi andremo con Azazel, che quindi assembla una query di NS, la spedisce a 8888 o quel cazzo che vi pare, aspetta la risposta, tira fuori il TTL, minchia puttana, il TTL inquinato. Perché? Perché questi tutti, poi quelli pubblici, fanno caching. Quindi se io mo gli faccio la domanda, mi risponde una cifra. Fra 2 secondi mi risponde come prima meno 2, grazie al cazzo. Non mi sta bene. Per determinare il TTL che faccio? Vabbè, invece che farti una query di tipo A address, io ti faccio una query di tipo SOA e tu mi dai il TTL del dominio. Grazie. Ok. A sto punto Azazel decide se il TTL rientra o non rientra fra quelli fast e quelli non fast, perché se è non fast manda la risposta a Botis e gli dice: oh, fine indagini, è buono, lascialo stare, inseriscilo nella lista dei non più indagabili. Se invece dai suoi risultati risulta che almeno è fast sto coso qua, c'ha un nome che vabbè, può darsi di no, fast e fast, cominciamo a accumulare degli indizi a suo carico. Quindi per quelli che sopravvivono alla sua indagine, che fa? Li passa al prossimo demone che fa un'altra indagine ancora. Se ne sapete un po' di fast flux, andate a vedere. E beh, c'hanno sempre una ridondanza della Madonna, altro che Cisco, ce n'hanno 12, 18, è difficile che abbiano meno di 9 DNS di riferimento. Quindi questo fa un'altra query DNS, gli chiede il numero di name server nel dominio e in base a questo c'è un altro parametro su cui fare la sua prossima considerazione. Che faccio? Questo è Cisco, ce n'ha 5, è, che ne so, Huawei ce n'ha 6, quando sono fast flux ce n'ho 12, 18, ho dei numeri un po' più sostenuti. Poi se li osservate dal vivo vedrete che anche a questo demone sopravvivono dei falsi positivi, ok? Però stanno via via diminuendo e soprattutto il rate mo è diventato gestibile, magari questo coso qua ne riceve uno ogni 30.000, ogni 300.000 di quelli che arrivano a Caron. Mo è anche vero che loro sono furbetti e si registrano in anticipo i loro nomi di dominio, però tendono ad usarli con una certa frequenza, non è che invecchiano più di tanto. Una delle proprietà dei fast flux è che non trovi mai nomi registrati più di 2 anni addietro. Però sta fottuta informazione ce l'hanno o via WIS, che comunque va a morire, e poi andarci a tirare fuori un dato che sia congruente da uno all'altro è un casino, perché il nick ti risponde così, quell'altro cos'ha, cioè o li conosci tutti o hai perso. Molto meglio adeguarsi a usare RDAP. Quindi Lilith, che è il prossimo demone della serie e ne riceve pochi, fa un'indagine chiedendo ai server RDAP da quanto tempo è registrato questo dominio, ma naturalmente la sfiga non ci abbandona. I server RDAP pubblici sfruttabili hanno delle policy, non vogliono che io gli sparo 200.000 richieste al secondo, quindi ti danno buone 30 richieste in 5 minuti, insomma una ogni 10 secondi. Per cui Lilith che fa? Passa la sua vita a aspettare che passino 11 secondi. Se c'è un file, perché il demone precedente è andato semmai a scriverselo su file, ok? Il fatto che sia sospetto, e perché lo scrive su file invece che passarlo da un demone all'altro come abbiamo fatto fino adesso? Perché da ora in avanti passano dei secondi e secondi fra la domanda e la risposta, non ha più senso che gli tengo dietro con una comunicazione real time, ok? Per cui quando Botis ha ben deciso che questo nome di dominio non è ancora innocente, lo scrive su un file, Lilith ogni 11 secondi passa, guarda, ah, c'è un file, fammi costruire la query RDAP equivalente. Sfiga vuole che quasi tutte le interfacce sono via HTTPS. HTTPS con i CAPTCHA, che du marron, quindi sto sperimentando con Open RDAP e con RDAPPER, che almeno mi lasciano costruire a riga di comando la query che andrò a fare al server RDAP e la cui risposta userò per decidere se passare da Lilith al prossimo la risposta oppure buttarla via. Perché? Perché comunque è già finita nella lista di indagini chiuse. Ok? Oh, un attimo che c'ho la gola secca. Dai che ci siamo quasi in fondo. Ah, Iblis. Tutti sti cazzi di demoni, mi serve che quando li avvio, non me ne sono scordato uno che non è avviato, quindi ne ho fatto uno che li guida gli altri e semplicemente gli passa i comandi che gli dico io, avvia tutto, ferma tutto, fai il dump della tabella con i domini già presi, perché così magari io la prossima volta parto già esperto, mi basta ricaricarla o accodarla a una esistente e io acquisisco conoscenza rapidamente, tanto è un tabellone della Madonna ma viene anche ricercato binariamente, quindi ce ne frega poco di avere 10.000 entry in più. Ah, vabbè, ok, guardate il banner, minimalità, quando mi serve per me non sto a fare la guida utente, parti, fermati, carica, scarica, butta via tutto e accoda, cioè, sono le cose che mi servono. Questi invece non ce li ho ancora, per questi due cosi c'è da dire una roba, a sto punto il numero di nomi di dominio, sospetti, sopravvissuti a questa serie di indagini è bassissimo, me lo posso guardare, però se io sono un po' paranoico, beh, allora, intanto, questo qua è un sospetto, sai che faccio? Nmap, dove? Sulla porta che sono sicuro che è aperta, me la tiro dietro dall'inizio apposta, ok? E non più sul dominio, mi serve anche il nome della macchina. Quindi per far andare COBOL mi serve di costruire le query Nmap. Che cosa fanno? Gli chiedo, ma dimmi che sistema operativo c'è di là, perché se è AX, se è un firewall ASA, Cisco, è inutile che vada avanti queste cazzo di indagini. Se è una macchina Windows è il caso che vada avanti. Ok, ultimo esistente che è solo pensato. Beh, è chiaro che io poi con questi dati qua, quindi nome host, nome dominio, porta, il protocollo è sempre TCP, è sottinteso, e me ci connetto e ti interrogo un attimo, tiro giù che cazzo mi stavi dicendo. Ci sono delle limitazioni, ci sono un mucchio di cose, per cui non lo so se questo lo manderò avanti. La parte determinante di tutto il cazzo di sistema sta nel fatto che sia scalabile, che possa affrontare un numero elevato di richieste e che sia integrabile, perché se domani mi viene in mente, o a uno di voi, di aggiungere il demone numero 7, il 6 e mezzo fra il 6 e il 7, che aggiunge una considerazione, un qualcosa in più che migliori il risultato, e beh, ben venga, non c'è nessuna limitazione al ne aggiungo un altro, faccio fare un'altra indagine al coso, al sistema complessivo, ok? Poi per quelli che si interessano di codice, tutto sto bel discorso funziona, sì, d'accordo, ma bisogna saperlo gestire, ovvero quando vai a guardare gli esempi di come si scrive il codice C per la gestione di un socket e te fanno il server fa così e il client fa così, 10 righe, Hello World è una pacchia, ma quando tu cominci a riceverne ogni 4 milionesimi di secondo, ma manco bucaz, non funziona così. Quindi ti devi far carico, fra l'altro, alcuni demoni come Botis, che possono avere più client distinti, copie dello stesso demone o demoni diversi. E bisogna che lui le sappia distinguere queste robe che entrano dentro. Il TCP ti viene in aiuto, te li tiene su code distinte, ma tu le devi saper scorrere, interrogare, ok? Queste cose qua, almeno mi ritenevo un esperto di TCP/IP, di protocolli, ma finché non te c'è scritto il codice non te ne accorgi di quanto sono ben fatte e rognose da usare. Cioè, ci sono tutte e due. Quindi a riguardo del codice, il numero di copie è ottimale da tenere vive. Dipende dalle vostre esigenze, se sono 1000 syslog al secondo è una cosa, se ne volete 1 milione su una 10 gigabit è un altro par de palle, quindi l'importante è che ciascun demone può essere replicato, tutti tranne Botis. Botis, che ha l'elenco delle indagini attive concluse, deve essere unico fino a un certo punto. Perché? Perché posso averne più copie sulla stessa macchina, ma devono condividere la memoria. Quindi le comunicazioni non più via TCP/IP, ma via IPC. Quindi posso sfruttare 8 core su questa cazzo di macchina, su un'altra 16 core. Però ciascuno di loro deve condividere l'area di memoria con l'elenco delle indagini attive concluse. Quindi comunicare via IPC. Vi dicevo prima, il protocollo di comunicazione, vedete che se scambiano 4 stronzate? È fatto così perché io potessi leggerlo durante il debug, ma se voglio una roba che regge un ritmo elevato sul serio, mica va bene questo, sia chiaro. Quindi guardate Dagon, 8 caratteri per identificare un demone, in tutto ce ne sono una manciata, per identificare uno dei demoni che sta trasmettendo contemporaneamente allo stesso server mi bastano 2 bit. Quindi quando lo voglio a prestazioni elevate, io lo devo tirar via Dagon, userò 2 bit per dirmi che cazzo di demone è. Ok. Poi il numero di serie, l'ho tenuto in esadecimale, questo è uno per dire che viene da lì, la richiesta numero 38 esadecimale. Mo se invece che stamparlo in caratteri io lo tenessi in esadecimale stretto, occupa metà spazio. Il ABCD1004, il codice D, mettilo nelle indagini concluse, non ho bisogno di 8 caratteri, mi bastano 4 bit, una roba del genere. Okay? Quindi tutto quello che è stato fatto per dimostrare che funziona e può funzionare a qualunque livello di scalabilità va comunque rivisto nell'istante in cui vogliamo delle prestazioni elevatissime, ok? Vabbè, qua faccio l'esempio di come sarebbe possibile usare 5 byte invece dei 25 attuali di quel messaggio lì di prima. È chiaro che noi vogliamo risparmiare sia nella quantità di dati trasmessi, sia nella quantità di elaborazione, ma il punto più critico non sta nelle comunicazioni su filo, sta nelle elaborazioni successive, ok? Quindi sì, va bene anche risparmiare sul pacchetto, su come è costruito, ma non ci porterà più benefici di tanto. È più importante risparmiare sul codice. Il codice, vabbè, ma qua secondo me vi rompo i coglioni per niente, però come lo istanziate voi un socket, cosa ci dovete fare? Se vi interessa questa roba ve la faccio vedere, se di come si scrive il codice, di, lasciatemi dire, la sequenza con cui trattare i socket, ad esempio come settare i flag per dirgli oh, i read, falli non blocking, se no non ci faccio un cazzo. Questi dettagli non sono proprio semplicissimi da trovare in rete, l'unica è provarli e vedere, e comunque la documentazione ufficiale è chiara. La documentazione ufficiale è chiara, poi gli esempi sono un po' meno chiari, quelli che trovate in giro. Ad ogni modo, tutti questi cavolo di trattamenti, file binding, del socket, a un certo punto, quando sei dentro il loop forever, ti devi far carico di riconoscere quale client ti sta passando i dati, in quale delle code TCP ti troverai questi cazzo di dati, ok? Ciascun client alla fine lo vede come un socket distinto, eh? Lui sta usando una sua porta che è diversa client per client. Boh, mo è troppo grosso, non si legge più un cazzo. Volevo fare l'esempio di un altro punto. Chiaro che quando vado a fare il codice in prova me posso fare in cascata if, mem, cmp, bla bla bla bla bla. Dal punto di vista dell'eleganza molto meglio un case, però alla fine deve diventare uno switch case su un numero, non su una stringa lunga 8 caratteri così a cazzo perché mi veniva comodo 8 caratteri, ok? Ultima scenografia. Allora, vediamo se ci arrivo. Non si vede una merda. Lavoro da matti, fatto così. Troppo grande. Non ci leggo un cazzo, è per quello che non lo so espandere. Ma ci deve essere... fantastico, al contrario, wow, questi sì che sono demoni. Ok, è venuto al contrario, stavolta lo teniamo così per la presentazione hack meeting. Vabbè, i demoni partono dal basso in questo caso, quindi N fonti di syslog, sfiga vuole che Dot mi abbia messo syslog N non nel posto giusto, ma state a guardare, ok? Quindi N fonti di syslog che sparano addosso a N copie di Caron, tante quante me ne servono per reggere l'assalto. Poi Caron eventualmente le concentra, due o più Caron possono far riferimento a un unico Verin. vediamo se scende, se fa finta, se lo rigiriamo. Allora, questo che fa? No. Ma puttana, ma... Vabbè. Andiamo avanti così. Quindi il prossimo, che è Botis, riceve le robe dai Verin e le inoltra nel percorso C verso Dagon. Poi, quando arriverà la risposta da Dagon, farà le sue considerazioni, cioè lo metto nella lista delle indagini chiuse. Oppure Dagon, sul percorso di due, lo passa da Zazel, che è il quindi è tutto fatto così, tranne l'ultimo. Che cosa fa? L'ultimo risponde sempre a Botis, non manda risposte altrove. Quando arriva da Zazel e procede nel senso di Aiwas, il prossimo demone, costui comunque manda la risposta verso Botis. E Botis deciderà, ok, ancora da indagare, mo però lo scrivo su file perché il prossimo della serie deve interrogare Red Up, ci vogliono dei secondi, amen, ok, che prenda la strada dei file invece che delle comunicazioni TCP. Molto più comodo da trattare. E quindi tutto questo meccanismo alla fine mi fa arrivare sul mio monitor dei nomi fatti veramente a cazzo o che hanno delle proprietà particolari, lasciatemi dire, che sono comunque dei sospetti, almeno dal punto di vista della macchina sono comunque dei sospetti. Poi il tasso con cui azzecca, cioè il tasso con cui me ne restituisce quelli veri, diciamo di veri positivi su falsi positivi, ancora non è quello che voglio, bisognerà che aggiungo delle considerazioni un po' più pregnanti, però filtra benissimo, è una meraviglia, perché comincia e subito butta via la parte più grossa, ok? Questo gli consente poi di poter scalare a qualunque livello e basta. Se ci avete domande me le dite, al più girerò sto cazzo di coso, ma non riesco a vedere, ci deve essere un coso per girarlo. Ah, rotate right, guarda, rotate. È una posizione sfortunata questa. Track, magicamente ci siamo arrivati. Vabbè, io direi che è tutto, se avete domande me lo dite. Dicevi che raramente superano i 2 anni di vita, che però non è nemmeno pochissimo. Mi chiedevo, c'è qualche lista pubblica dove vengono, o magari pensi di integrare questa cosa in... Io che sono il cattivo e voglio usare un dominio fast flux per la mia botnet, che faccio? Lo registro oggi in un posto, non dico impensabile, ma comunque normale, e poi lo tengo lì a stagionare un po'. Fa conto che è un parmigiano, ci vuole un paio d'annetti. A volte lo consumi fresco da pasteggio, ma è difficile che vada oltre i 2 anni, almeno per quello che ho visto io, non ce ne sono di più vecchi di 2 anni. È chiaro che, cioè, se tu, io nel caso, faccio la misurazione sui 2 anni e questi lo scoprono e dicono cazzo, 2 anni un giorno, glielo metto in culo, ok? Bisogna che sia adeguabile in maniera che magari all'inizio delle sue elaborazioni lo tengo, ci becca più o meno, e poi dopo diventi più stringente nelle considerazioni che fa. Ma no, le blacklist cosa vuoi che durino? Hanno un tempo di vita di 10 minuti alcuni, che cazzo te ne fai? Tu fai la blacklist e io sparisco, e rifalla e io risparisco, e grazie al cazzo, è perdente la blacklist. La blacklist, o meglio, All'inizio pensavo, tengo una blacklist e una whitelist, è una stronzata, sono tutte indagini concluse, in un modo o nell'altro, io l'ho già trattato, questa è la mia whitelist, ok? Tutto quello che è già stato trattato, buono. A questo punto hai l'inverso della blacklist, è chiaro che non è così selettiva come la blacklist, però almeno funziona e non devi stare ad aspettare un altro che me lo pubblica quando non vale più un cazzo. Buona serata a tutti. Non c'è il rischio che blocchi qualcosa da bloccare? No. In che senso bloccare? Queste sono copie di Syslog. La macchina che... Ma no, io siccome indago solo nomi di dominio, se vado a vedere ci sono anche siti porno, ma a me che cazzo me ne frega, io sto cercando i fast flux, quindi questo non è un sistema di reputation o robe del genere, è maledetti, ogni 11 milioni di richieste ce n'è una che la voglio prendere, ok? Come faccio a prenderla al volo? Non sei andato su un sito lecito o illecito, non me frega un cazzo, non gliene frega niente a nessuno, se no non ci avrebbero le regole sul proxy per farli passare. È passivo questa cosa qua, non, fra le altre cose io potrei ricevere i syslog e inoltrarli al syslog server via UDP 514, ma faccio il contrario, lui li riceve, ne fa una copia di quelle che mi piacciono a me e me la manda. Funziona benissimo, sei passivo, non interagisci con nessun sistema. Ah, sì. Se tu vuoi più copie attive contemporaneamente, una la dovrai mettere in ascolto su una porta e una su un'altra. Se più avanti, ad esempio Dagon, ti piacesse di fare il fork e ogni volta che arriva una richiesta io faccio il fork di un nuovo processo, e si può fare anche così, però nelle considerazioni che un po' abbiamo saltato, cosa c'è? Che non ne vale la pena. Non ne vale la pena alcuni perché sono troppo grossi, fare il fork ci metto troppo, non ha senso. Altri perché sì, ok, faccio il fork, fai un'elaborazioncina della minchia e poi muore, ma vaffanculo, no, cioè, è meglio copie statiche dal punto di vista delle prestazioni, quindi porte distinte. Ok? Ok? Forse me lo sono perso che l'hai già spiegato, però tu fai puntare la sorgente syslog dei proxy verso una macchina Caronte che è dimensionata per il flusso che si aspetta, perché tu usi Caronte su macchine con prestazioni diverse, però quindi tu fai l'assunto che diciamo quel proxy ti manda un massimo una determinata quantità e quindi la fai sparare su una macchina ben carrozzata, altrimenti su una... Ok, non... È chiaro che io devo almeno sapere l'ordine di grandezza del problema con cui mi vado a scontrare, ok? Cioè, io non ho bisogno di sapere che mi arriveranno 100.000 righe al secondo, ma siccome ne vedo 8.000, voglio una roba che possa scalare almeno fino a 100.000, ok? Quindi non è questione del... Oggi, in questo momento, quello che io gli butto addosso è quello che voglio ottenere, anche perché il codice, il protocollo sarebbero inadeguati a dei ritmi così elevati, vanno ottimizzati, ok? Però non c'è il problema di quali risorse, perché comunque se ho una scheda 10 gigabit e ci avrò la CPU adeguata a trattare 10 gigabit, se no grazie al cazzo. Okay? Se dall'altro lato ho una 10 megabit che va a finire su un ferro vecchio, quello farà il mestiere dell'ultimo della serie, quello che c'ha poco da fare, e sfrutterò anche quella cazzo di macchina. Okay? Quindi mentre qua girano tutti sulla stessa macchina, la stessa CPU, e tu li puoi distribuire dove ti pare, finché ne vuoi, e così hai tutta la capacità che ti può servire per 1000, 10.000, 100.000, 1 milione di syslog al secondo. Basta, c'è stato. Fan vedere. Hai ragione. Curiosità lecita. Sempre. Se mo riesco a chiuderlo senza girarlo un'altra volta. Vediamo. Tac. Di andare a fanculo, di andare a fanculo anche tu, ok. Ci siamo. Allora, cosa sono? Qua li ho fatti girare in modalità registra su file, ok? Quindi se volete vedere che cazzo c'è dentro tutta sta sbrodolata, ne abbiamo qualcuno. Quando identifica un sospetto, scrive il file suspect numero della richiesta, ok? Che mi serve sto cazzo di numero di richiesta? Ricordatevelo bene, perché fosse mai un vero fast flux, io voglio segnalarlo, se no non ci faccio niente. Cosa contengono? L'ID originale, delle stringhe esadecimali che mi dicono qual è il server syslog che mi ha mandato questa roba, chi è il client che... Ah, lo vuoi più grosso? Un attimo. Allora, ti dicevo, come è fatto il file, ogni riga sta su un singolo file, così Lilith che passa e le prende una alla volta ogni 11 secondi è già comodo. Insomma, ci tiriamo dietro tutta una serie di robe. Se guardate quel 1 Bologna, Bologna, Bologna alla fine, non è altro che la porta 1080-80, robe del genere. La terza riga, quella con start SSL com, vedete che a un certo punto c'ha 0050, quello l'ha contattato sulla porta 80, ok? Mi tiro dietro la porta, l'host, il dominio, il timestamp, una serie di robe minimali che mi servono per ricucire le informazioni. Cosa ha tirato fuori? Beh, ad esempio, serving-sys.com, vabbè, al di là della lunghezza del nome, che è superiore al minimo indispensabile, se andassimo a cercare la stringa serving-sys.com in giro, ah, ma guarda un po', quante cazzo gliene sono arrivate di servingsys.com. L'importante è che solo la prima sia stata trattata fino in fondo. Tutte le altre sono state buttate via sulla strada, il più alla svelta possibile. Quindi alla fine, quando gli dico, vabbè, chiudi il coso, e lui registra, e servingsys.com lo manda indietro a Botis dicendo io servono quel codice ABCD 1000, vuol dire servono più indagini. A sto punto Botis reagisce dicendo vabbè, lo scrivo su file, toccherà a Lilith continuare, ok? Quindi i nomi di dominio che ha preso, almeno in quella sessione lì, non sono niente di veramente pernicioso, ok? C'hanno solo delle malformazioni congenite, lasciami dire. I demoni successivi, quelli che prendono i file suspect come Lilith e lo trasforma in un altro tipo di file, avendo anche il tempo di vita del nome di dominio, lo tagliano ancora di più, ok? Questa lista non è abbastanza buona, lasciami dire. Chiaro che può essere interessante, perché? Perché Google, ma che cazzo sto a indagare Google? Il primo che contatta Google e avessi mai fatto tutti i calcoli fino in fondo, e beh, basta, d'ora in avanti basta. Okay? Quindi se una richiesta mi arriva 300.000 volte, beh sì, può anche essere una macchina infetta che lo fa in continuazione, però tendenzialmente se poi viene da macchine distinte, tutto aiuta a dire, ah no, questo non è un cattivo, non è un candidato papabile a essere un fast flux. Però queste considerazioni te le tengo un attimo sul vago, perché il numero di lettere, la qualità delle lettere, la sequenza delle lettere, e beh, ci fai un po' quel cazzo che ti pare, soprattutto se hai sotto mano due, tre veri nomi di dominio fast flux e dici, beh, ma è chiaro che hanno questa proprietà, quest'altra e quest'altra, ok? Quindi si può e si deve filtrare meglio anche a livello sintattico. Okay. Io ci ho messo due o tre test giusto per far vedere almeno a me stesso che funzionava. Se poi ne voglio tanti, allora magari faccio un altro demone che fa quelli lì apposta. Se invece ne voglio aggiungere uno, lo metto dentro un demone esistente. Okay. Però quelle sono considerazioni che te le fai come ti pare a te, lasciami dire, te le cucini in casa come vuoi. Se il TTL è alto o basso? Beh, vabbè, tu puoi avere la tua opinione, lui la sua, ma esiste una media, esiste un fattore riconosciuto. Invece sulla sequenza delle lettere lo sai tu che i nomi italiani sono fatti così invece che cosa? Che i nomi inglesi, che quelli... È chiaro che se ci fosse mai un dominio fast flux che nei suoi caratteri, cioè dei caratteri arabi, e beh, ma attacco al cazzo, sia chiaro. Amen. Buona serata a tutti, andate a mangiare.